silenzio se poi c'è rispetto di nuovo. La ragazza, molto strano. Sicuramente allora sono difettosi quell'alimentatore. E poi se fosse stato sovraccarico sarebbe scattato giù, poi c'è scattato l'interruttore generale di casa. La gamba. E appunto. C'è qualcosa che non quadra, cioè. Io gli avevo telefonato, tanto è ancora in garanzia. Deve avere 24 mesi di garanzia, mi sembra, che sarebbero 2 anni. C'ha 2 anni di garanzia, c'ha. E quindi telefona e glielo dici che c'è cosa di dartene un altro, come si deve, di non dartene mai più di quella. Sicuramente la parte di petrolio, se ti fa così. È così. Bisogna pacchettarlo e spedirlo. Se è così e così c'è poco da fare. No, quella cosa lì non la puoi manco vendere, se no tieni tutto il curore, perché purtroppo lo sai com'è. Ma io roba non è vendo, non mi permettono a me. Se non va, non va. Ma dopo che accende, dopo va, funziona bene. Io non capisco cosa cacchio sia. Bisogna che risponda il problema al rivenditore. Vuole anche la trabocca, mi ha fatto saltare la luce, però poi non ce l'ha più riaccesa. Ma è proprio un difetto, difettosi sono. Difettosi perché hanno qualche problema, è un difetto della fabbrica proprio. Quando è così, come dire, un lungo ripare di piatti già punito, ma quando è così è fatta. Quando è difetto di fabbrica, è uno, quando comincia già a essere un secondo, quel prodotto lì non l'avrei più accettato, me ne avrei fatto mandare un altro. Vediamo come va, come si comporta in questi giorni, secondo come si comporta glielo rispediamo indietro, tanto la devo telefonare a Desiree per una cosa e dico. Glielo ridai perché no, se l'ha pigliato andare a cucino, devi prendere un altro alimentatore diverso da quello. Perché sono tutti difettosi di fabbrica. Sì. L'ha fatto anche a coso, l'ha fatto anche a Torriti. Infatti lui gli ha cambiato la scheda, gliel'ha messa un po' più bassa di volti di amperaggio, però bene o male quella lì. Però il suo era il modello inferiore a questo, ma fa lo stesso difetto. Sono difettose. Vagava. È un casino. Perché come quello che ho io, come quello che ha Saverio, non mai dato noia, no? Io sai cosa è successo il giorno, il pulsantino si è rovinato, ma quello accende spegnendo, giustamente un po' così, è fatto, è che ci ha andato visto, sempre andato bene, non ha mai dato noia. Sì, perché basta non spegnerlo, basta staccare la spina e buco, c'è un macro, sai, è fasciato. Infatti io molto volte lo spengo dall'interruttore generale, poi come c'è l'interruttore generale si accende tutto. Vabbè, è una fesseria, gliel'abbiamo sostituito e basta. Capa. Ma invece dell'altro non mi ha dato mai problemi, quello da 30 ampere. Quello lì va benissimo, quello lì è buono. Può capitare, magari no, non è detto che non sia buono, ma può capitare che siano difettosi dalla fabbrica proprio. Per qualche ragione non vanno bene, per un qualche ragione che cosa ha messo, vogliamo mettere su qualche componente, eccetera, eccetera. E me lo voglio aprire e controllare, avesse qualche fesseria, qualche filo, qualche cosa. Non lo posso saldare questi giorni perché se mi va il fumo nell'occhio mi fa male, quindi non posso manco saldare. Non penso che ci sia niente. Prova a vedere, ma... E io loro, dove si è bruciato, cosa? Ma già lo so, poi quando si brucia un componente già si vede. Dove vengono i bruciati, era vinto. Prova a vedere. Guarda, siamo piano. Non lo so. Qualcosa ce l'ha per forza, perché non è possibile che come è acceso l'interruttore di quello lì, pum, è scattata la corrente. Cioè, ma non è possibile, raga. Perché se lo fa anche quando se lo accende l'interruttore generale, è vero? No, però se lo riaccende l'interruttore generale non l'ha più fatto. Quello sia un pulsante, minchia, sta roba. Non lo so. Che se il pulsante siccome è nuovo me lo tornano loro nuovo, ma perché sono difettosi quel capo di pulsante, a me mi ha fatto pure la picchiata, davvero? Yeah. A me ha fatto alla confine ha rotto giamba, perché si sceglie con la plastica che c'è dentro e poi magari Gava. E beh, Giuseppe lo si è sentito questi giorni. Magari è stanco, va. Mi stavo facendo fare viaggi allucinanti questo periodo. Davvero? No, no. Sì, alla Maddalena, a Cagliari, eccetera, eccetera. Ma mi pare che quelli li faccia sempre. Non è solo in questo periodo. Magari adesso c'è qualcosa in più. Beh, adesso dice che stanno facendo più viaggi in quelle zone lì. Meglio che ce ne sia di lavoro, ma se ce n'è così tanto basta prendere un'altra persona. No, già sono in due già. Dove che non basta? Mi sembra che sono in due, non me lo ricordo quanti sono. Però hanno molto lavoro perché sono gli unici che fanno la distribuzione. Come autisti magari. Tanto oggi ho fotografato un camion al quadrato allucinante, di quelli americani col muso lungo, ce ne presenti che hanno le marmite tipo fumaioli. Cazzo, un bel bello. Visto, l'ho visto. Visto l'hai? E poi c'era un effetto, c'era, vicino. Esatto, ma che cosa c'era? Nulla, sempre, perché ho visto che c'erano un po' di bambini lì al palazzetto. Io ho fotografato proprio, l'ho mandato sia a Gigi che a Coso, che a Giuseppe. No, non lo so cosa c'era. Ma il camion americano, ho visto che c'erano tutti quei disegni, la bandiera americana. Sì, anche il modello noi l'abbiamo in Unione Europea, sì. È proprio americano quello. Sì, ma la targa non era americana, Forse è stato matricolato qua qualcuno che ce l'ha. È tipo uno che si compra nel serotto, che è americano, però se lo portasse l'ha trovato qua. Non mica prendo il suo camion, ti sto dicendo che dentro c'ha della strumentazione allucinante, l'hai visto dentro? Io sono salito. Ho fatto salire. Sì, non c'era nessuno, sono salito sui gradini per vederlo dentro. È bello. E io sono proprio un problema. Sono un camion un bel bottini. Ma già si difendono abbastanza, ma io ci sono di nuovo. E poi la forma è mastodontica, proprio bella. Non sembrano manco carne, sembrano vetture come sono tutte quelle cingillate, cose, dentro, fuori. Affatto. Wilson, come si chiamano, diciamo americano, se ci metti un verso che ti ha per la cosa più minoretta, e invece noi siamo all'incontrario, non abbia di mezzo, sempre. Turbo Starso. Allora, invece stanno andando in europeo, sono così. Non abbia di mezzo, è il fratello Starso. Comunque quelli sono belli anche da prevedere, sono belli come estetica. L'estetica. Ho dei moni che sono americani. Gli americani sono grandiosi in tutto, hanno la maglia della grandezza in tutto. Tutto ciò che fanno gli americani in tutto mondo, come può concludere sbagliato. Hanno la maniera della grandezza, no? Per dire, mio padre per le scarpe comprava la gomma americana, se ne era indistruttibile, lo sai che tutti pure a consumarsi, Te lo so, hanno la mania della grandezza, no? Sì, ma ci mettono anche in un campo per dire cose, ne fanno bene, bisogna dirlo questo. Sono tutte cose molto funzionali, molto... E con, diciamo, per dire gli apparecchi, faccio l'esempio degli apparecchi, c'hanno tutto, non devi aggiungere niente, tutto quello che tu desideri ce l'hanno. Pian pianino stanno anche adeguando le altre case, se non è perché sennò non vendono. Vabbè, ma le cose americane. Poco viene da mamma, se le altre case quelle si adeguano e lo fanno come lo sto facendo adesso, prendono loro lo fanno ancora superiore. Capo, siamo bucci, siamo sempre bucci. Noi vogliamo le cose, però pretendiamo molto. Pretendiamo, anche se tu per dire c'hai una passione, tipo quella del baracchino. Non è che pretendi molto, ma se tu vedi, per dire, un anno 48 a fianco un S9, è normale che ti piace più l'S9, cioè è più completo, ha più tutto, senza nulla togliere alla 48 che è un apparato robusto e cose, però se tu ti vuoi l'S9 in vetrino, dici no, a me mi piace più l'S9, è tutto blu, tutto bello, lucente. Stiamo parlando di un'altra radio, molto più superiore. No, 48 la robustezza, sempre avuto la robustezza. Ma fa schifo come prendere gli splatter e i battinini. Quello normale, sì. Chi giocisce ultimamente no. È tutta un'altra cosa. Quello normale sì che lo faceva. Questo che uscito ultimamente no, non è più così. Per fortuna gliel'hanno tolto. Perché se c'è un altro tipo di circuito, quello lì è uguale solo all'altro esteticamente e esternamente. Poi tutto il resto all'interno è completamente diverso, tutto cambiato. E stavo parlando con Massimiliano che c'ha assistenza della vita e mi ha detto che da quando sono usciti questi qui ne ha avuto uno solo che era difettoso, ma dice che era una fesseria di un filo, non so che cosa, ma dice non è stato più facendo. Quando siamo nella 48 lui sta sempre toccando, ritoccando, aggiustando e facendo. Questi qui dice, ancora dice, se ne verifica tu non sono guasto. E con tutto che lui fa per quasi tutta la zona della Sardegna nei bar. Comunque già sono abbastanza affidabili queste nuove tecnologie che stanno cercando, con questi nuovi circuiti. Anche questo non mi posso lamentare, è abbastanza affidabile. Sì, non dico di no. Però ti dico anche che è sempre, diciamo, un apparecchio meno completo, come diciamo non c'ha ecco, non c'ha i watt regolabili, a meno che tu dopo te lo camuffi, se no è normale. Quello faccia al letto. E non è un 48. Per prenderlo normale, per prenderlo normale preferirei più questo, però per prenderli normali tutti e due, stavo guardando in via l'altro giorno e poi mi sono anche stancato perché cazzo era un bel di roba. Ci sono molte cose interessanti, ho visto che ci sono sia apparati, sia antenne, un bel roba c'è. Mi c'è sempre di tutto, c'è. Un pregio di tutti due. Allora, quello è il primo piano. No, ma parlo anche da negozi B, negozi B. Come può essere Tecnocomunicazione che un negozio B? Va. Centro elettronica, quei negozi lì. Quelli c'hanno diverse cose bellissime. No, ragazza. Ne hanno roba quelle. Di là avevo una a comparare. Ma non c'è la storia del Rosmetrovat contro lì. Rosmetrovat contro. Come si chiama? È accordatore della ZG che ordina da Fusaro. Gli ho detto Antonio, ma lo ordini? Sì, io adesso lo metto in mezzo, fra tre giorni ce l'hai, in casa telefono, e beh, è arrivato. Peggio di Torino della GPC, la matessi cosa. Te l'ha portata ancora. Aveva detto che l'aveva ordinato, che l'aveva già ordinato, che aveva spedito l'ordine e tutto quanto, che fratello arrivava, vabbè. Non sono andato lunedì perché mi hanno operato, sono tornato martedì e sono andato di persona, mentre no, lo sai che se non c'è il tanto l'ordine non si può fare. Scusa, ma se tu fai l'ordine l'hai già fatto, ma se possiamo prendere i giri nuovi, tanto qua. Cazzo, se tu dici una cosa la devi fare, se non puoi devi dire non posso, tutto, basta. No, io l'ho già ordinato, ma non è ancora arrivato, certo fa una cosa bene di Dio quando arrivi. No, ma tanto già mi serve, io lo vedo un altro che me l'ha ordinato. C'è, ma ti sembra una cosa giusta? Che vabbè, purtroppo sono così tutti, E dici che devi pagare la spedizione, ma non me la fregava, ma con niente, altro 11 euro gliel'avrei data la spedizione. Dice che c'erano solo due pizzi, a me cosa mi affronti, non sono problemi miei, capito? Voi dovete saper lavorare, perché se non sapete lavorare più li perdete, c'è poco da fare, io ho detto. Dice io devi avere pazienza, scusami, ma devi avere pazienza, tu io la pagata ce l'ho, ma mi serviva questa cosa, te l'ho ordinata. Un mese fa mi hai rinviato le cose, ho avuto pazienza e tutto, mi ha detto Massimo lunedì che era lì, arrivato martedì non vi racconto. Sempre così so, non trova qualcuno e ordina dall'altra parte. Trovato, ma è a seconda mano, non è nulla, voglio nuovo. Ah, ma con cuore. Ciao Luca, buonasera. Buonasera a tutti, cambio. Ciao Luca. Vabbè, tutto bene. Tutto bene quando va bene. Che ogni tanto riguardi l'audio non riattivare, si riprende, vediamo un po', adesso ho messo mute e non so cosa abbia, la giornata di drive l'audio, dopo dici di gabbo, sto facendo le start veramente, ma poi non lo spacco, subito sopra anche il camion, perché non sono più. Cazzo, ogni volta devo riavviare, ieri 10 volte ho riavviato, tra l'altro mi sono tutte le palle, non aspetto la sala a dormire. Sì, erano tanto se mi ha diventato macro, bruh. Tu hai detto la baracchina, non ci sono mai problemi. Come l'ho fatto la nuova? Sono la mattina. Sì, l'opera. L'opera sì. Mancini? Non lo so già. Non sono di cosa. Al telefono. Ragazzi. Ma sai, no, un altro, come si chiama? Io conosco la Sisi. L'altro è una donna, solitamente. E lui è una donna, boh. Non lo so come si chiama, però. Non mi ricordo il nome. Quintini è molto bravo. Lui mi ha fatto riacquistare la vista completamente. 10 decimi ciò. Se mi così già, scusa. Ho fatto una visita di controllo l'altro giorno. Mi ha detto, legga questa lettera qua, dalla più grande alla più piccolina, e la più piccola, proprio piccola piccola, che c'è la lega? Ma così, a me non sa che altro per bene. No, scendi, scendi giù, scendi, aspetta già. Ma come guardano? Non siamo un amico, il cucinello della Sardegna che ti fa pepe. Non siamo un amico della Francia, si chiude la sorpresa. Come basse sono. Ma ne sia la propagazione, vedrà. Sì. Cosa lascio? Ragazzi, mi aggarda. Hai sentito ieri notte cosa è successo? No, dove? Cosa? Dici che c'è scatenato un putiferio. Temporale forte verso Ploaghe, lì, da quella zona. Davvero? Ah, va. No, non ho sentito nulla. No. Che temporale, che cose strane, buf. Ma dici che era forte, ma forte davvero, me. Vabbè, non posso credere. Stai a domare per quella zona di cavolo, a pigliare. Ma è strano però, cazzo. Da una parte ci fa caldo. Se c'era un caldo alle mananuzze, non sono riuscito a dormire, io lo sai. Me ne sono dovuto andare sul divano, che è più fresco perché è in pelle, per addormentarmi, con la finestra tutta spalancata. Mi sono aspettato qua alle 3 del mattino, cazzo. Ma che vai il fumacco, mamma mia. Ma cos'è la gombina di Guto? Che è un macco, non che siete a che parlava con la pistola, cioè, ma che lo tirava, così sicuro. Non mi ha esaurito. Ecco che ce l'ha preso. E il macchetto lo sa, contro il muro. Ah, di chi si fa vedere con i bari, con i muri? Allora, prima è cominciato la casa, perché scendo giù? Ah, non ci credi, aspetta. Siccome c'è ubriaca di parte, e se si cade la gente non è un preso contro il muro, e ecco di aggiappi, pa! Hai visto che ti ho fatto male, ci credi a Dio, eh? Povere uomini, qua può succedere uno che si sbronzica, ma che non capisca che il muro non parla e cosa, no, è Paco Burro. Oh, appena. A me mi è successo di sbronzare, di prendere la sbronza allegra, cosa, no? Ma capisco tutto, Sì, vedo un po' fuscato, così, capisco tutto. Ma io ti ho detto che si sbronza a fare il muro alano. Giusto. Grande. E allora ho trovato pesce. Perché sai cosa fanno? Quando non c'hanno la roba e sono in crisi di astinenza bevo. Ah, va. Da voi me l'aveva con un cane. Allora non hai capito che devi stare zitto. Ci deve dottor Barazzo, avete dei manzani. Allora. Non c'è tranquillità in quella zona, per carità di Dio. No, grazie a Dio qua, a parte quei ragazzacci che ho detto che si mettono a suonare la chitarra lì, che rompono le scatole, ma no, non c'è niente di, abbastanza tranquillo. E molte volte si mettono a cantare di notte, e con lui un po' da fastidio, anche se d'estate. Scappa. Non va più dai Nokia, che si muove, è che nell'anno che se l'aveva anche compattato. Già su e farando, già su i carri. Dice che un personaggio guardo, che se farando, già sui carri, la vorrei buttare a Roma Santo. No, no, buttata, se ti vai di buttata senza allora. Ma come? Bisogna sopportare, molte volte però quando ti disturbano così il sonno rompe, perché pure domani devi andare a travagliare e non ti puoi citare così. Ma poi come sai, già, ma che ti giro, ma che ti giro, ma... E magari stava pensando a qualche cosa che aveva visto, capito? Fanno miscugli poi strani. Come quando sogno io, la stessa cosa. Che ti è un po' diverso, è già. Ma magari lo faccio da una stanchezza. Ma è una cosa che gutto. E a che gutto o a chi è... Devo smascarizzare, è un vato. Flippo. Chi? A morte proprio, ma... Non così, no. Ce n'è uno anche che sta sempre vicino all'acqua perché lui è a Pascoli. Mi fa un po' di... Quando entra quello lì mi rotto... È sempre grattandosi la testa, è sempre in tensione, non sai come ti si muovono i piedi, sono sempre tutti in tensione, si gratta le gambe, con la birra in mano. E una volta mi ha detto, scusi, mi fai passare, no guarda, ho fatto anche io. Ma come siamo abbaidati, vai, mamma mia, non gli dica mai di no, così, che sono rissusi. E sono rissusi, scusi, io la fila la faccio quando trovo la gente avanti, la fa anche lui. E ma sono solo su due di birra, e anche se ho solo il pane da pagare è un'altra cosa. Cosa vuol dire? Guarda, dici, sta vedendo le ombre che ti ricordo romano a capo, e per le la bottina un godo, bastava delle cucce alla commessa. Quando erano andati i dozzi, gli acchiarini, c'era uno tutto tattuato, cartellato, non si reggeva in piedi a quanto era fatto. Ah, che pane dei nomi, mi abitava tutti i cucci. A me già mi rispetta, una cosa di uno ha fatto un tocco con la caccia, non mi fai mazza, ha detto, zitto, senti quando non va via, non me ne metto da va via, senti quando le fare un detersivo a capo, davvero, sì, davvero, sono cazzo, me l'ha umiliato, ha detto, zitto, ma non c'è più niente perché muto è stato me. Ma sono tutti buoni. Sì che non rompo, l'altra volta mi è successo da Simone, sono andato perché Manuela, non so se te l'avevo raccontato, quando era piccolina, aveva il vizio come Marco di dormire vicino a me, no? Nel letto, e poi la trasferivamo nel suo letto, era sempre con me. Quella era proprio ancora più attaccata. E praticamente era andato a un compleanno a sera. C'è cucata 29 mesi, drummi della bettina. Sono andato a prenderla per portarla nel letto e mi accorgo che era tutta piena di chiazze nel corpo, ma tutta, non ha tanto la pancia era tutta piena, nelle braccia, nelle piedi, aggiubilati. E vado da Simon, anzi no, prima l'ho portata all'ospedale, è vero. Mi hanno detto di praticamente di prendere questa medicina. Ho fatto un attimo perché era l'unica che di notte era aperta. Ah, se mi ha sfregato l'occhio, tanto va a fanna. Sono andato un attimo perché era l'unica che era aperta come farmacia. E entrando lì su Dussico. Era romante si grattava un gambo. Sembrava che aveva robe varone, sempre nelle torrenti. Agitato, non si vedeva, e la signora cosa ha detto, la farmacista ha detto, lei, che cosa desidera? Allora veramente ci sono prima io, che c'è un problema, mia figlia devo... E dice, lo mandiamo via 5 minuti e se l'ha mandata, l'ha dato la siringa e... Un'acqua e una siringa, una e un'acqua, così l'ha detto. Cavolo di via che sua acqua? L'acqua per diluire l'eroina, no? Guarda, che gente che... Acqua distillata ci mette. Adesso la buona comprare sul supermercato. No, è fatta in modo diverso, in cose piccolo, capito? Una dose, capito? Sì, già le va bene quella loro. Allora infilano prima la cosa, la siringa, scaldano la roba, tu mettono l'acqua insieme, la scaldano, poi con la siringa la aspirano e poi se ne niente. Che gente schifosa. Mi ha detto questo amico che insieme a lui in finanza c'era questo tipo rosso e quando sono andati a fare la visita gli devono fare la iniezione nel petto, no? Quando stanno appena entrando con il recruit. E fatto sta che era 3 ore, lui era in fila, gli diceva, era alto e grosso questo qua, gli diceva, no, ma non me ne devono fare iniezione, no, io iniezione non le devo fare, per quale motivo la devo fare? Cercava sempre di convincersi che non le doveva fare, no? A chi di mia? E quando ha visto che toccava a lui è svenuto, è proprio svenuto come una pera. E niente, dopo un po' di tempo questo qua, la finanziaria che era, è caduto in un giro di droga e cose del genere, dice, tu da una persona grossa così ti aspetti di solito a casa che sia coraggiosa e cose, invece no, era meglio di là. Non se ne fate la vagogna. Allora, all'ospedale com'è? Quando ho fatto l'operazione lui lunedì, c'era un signore che era ricoverato già da una settimana perché aveva dei problemi all'occhio, cioè aveva praticamente una vena dell'occhio dove non passava il sangue e dovevano mettergli un liquido di contrasto per vedere l'overa che non passava, capito? Infatti c'era sempre l'ossigeno attaccato, aveva problemi, un aneurisma e quindi dovevano fare questo esame di contrasto e praticamente li dovevano infilare questo ago cannula e iniettarli del liquido di contrasto, mi pare blu, roba del genere. Come ti ha visto l'ago è svenuto, cazzo, l'hanno preso a voci, mi ha fatto anche pena questo qua, dicevo che quando io sentivo l'ago, io ho paura dell'ago, non posso avere né sangue né aria. E l'infermiera è entrato, se non fa l'esame, se ne sta un anno qua all'ospedale, lei lo deve fare per forza, sempre che un anno ci duri, gli ha detto, perché se lei non fa questa visita, non capiamo da dove non passa il sangue, ci può rimanere da un momento all'altro, gli ha detto, già detto. Se necessaria è necessaria, uno non può tirarsi indietro. E guarda che c'è anche gente che fa il servizio ambulanza, che fa queste cose, non so come cavolo facciano a prenderle, fa dei mari, eccetera, eccetera. Non c'è solo gente comune, no? Sì, una ragazza della misericordia l'altro giorno si è venuta all'ospedale a prendere quel ragazzo che aveva avuto quel licenza con la moto zappa, te l'ha detto che ha praticamente si è fatto male all'occhio. E come gli hanno scoperto l'occhio per cambiare la medicazione, si è dovuta scappare e mi ha detto stavo per svenire, non devo guardarlo perché sennò svengo. No, io secondo me io dico questo, che cazzo ci fai lì? Se sei così, i corsi, che cavolo è che ti ha fatto fare per essere lì? Ma io guarda, io secondo il mio parere deve essere niente scelta e basta. Beh, bisogna essere freddi la morale, almeno nel primo momento, poi se ci pensi non eri capace, che non mangi nemmeno, però nel momento devi essere freddo, lavorare freddamente. L'unica volta che io non ho avuto questa freddezza è quando sono capitato in casa di un'amica mia, e la figlia, che era Valletta di Manuela, stava affogando, gli hanno dato un pezzo di pane, gli si è rimasto in gola. Non siamo riusciti a farlo buttare fuori, ci siamo riusciti solo io e Edoardo, quando siamo arrivati, e l'abbiamo tolto lui, io gli ho dato un dittoncino in gola e l'ho tolto. E c'è poco da fare, non potevi fare altrimenti, l'abbiamo fatto, dato un colpo, poi ha preso l'uncino, l'abbiamo tolto e poi ci abbiamo portato all'ospedale perché è stato troppo tempo senza respirare, era Viola, tanto Viola, cazzo. Mi dice a fare a delirare, perché uno che era una figlia di un'amica mia, e due ho preso la mia figlia che aveva la stessa età. Lo so, quando è così è comprensibile, però se tu gli hai fatto il soccorso e gli hai fatto solo del bene, hai fatto la cosa più giusta. A me invece danno fastidio quelli che se ne scappano, non fanno soccorso. Se quell'operazione dovresti farla tu, se non c'è quello che è preparato per fare quello, magari hai fatto, sai come in dei giochi, ci corce, chi fa, se ne va, e quel corso l'hai fatto per farlo tu quell'operazione, e tu non gliela fai, che cazzo ci stai a fare? Così adesso sono anche molto seri come corsi, ti fanno la mattina fa la teoria, la sera mi pare che si faccia la pratica. No, sì, ti fanno, la mattina ti fanno la teoria e più ti fanno vedere tante cose, ci sono degli infermieri professionali che ti fanno vedere il massaggio, tutte queste cose qui, come si fa. E poi la sera ci sono i dottori che ti fanno l'esame. E scappa. Io non riesco a capire che cavolo di soccorritore ci sono ultimamente. Ti senti male perché vedi il sangue. Ma tu che cavolo hai fatto quella roba? Non fallo, scenditene, una cosa. Se te ti fa quell'effetto, figli, te ne vai, non ti fai mai più vedere. Perché lì bisogna lavorare, col coraggio bisogna lavorare. Anche se un po' ti dispiace, eccetera, però devi fare di tutto per salvarla, ma se tu non fai di tutto per me, per portarla, per salvarla, eccetera, eccetera, non puoi stare lì, secondo mio parere. Vabbè, meglio che si riesca a rispondere al telefono e fare lo stesso servizio di volontariato. Risponde al telefono, sta al centralino, fa cose che magari non ti fanno vedere queste cose qua. A mio parere, se tu hai fatto per fare quello, devi pigliare i piedi alla fine. No, ci sono altre mansioni in associazione volontariato, non è che ci sia solo quella di soccorritore o di autista. Ci sono tante altre mansioni, si sta in ufficio, c'è chi registra le cose, c'è chi prende le telefonate, c'è chi prende gli appuntamenti per magari gare sportive, eccetera, eccetera, per parlare col responsabile. Insomma, c'è un po' di tutto. Vabbè, pure quello si può fare, mancanza di altro. Pagato. Se la parecchio, accendo un po' l'altro, dai, quello grande. Mi aspetti? Ehi. Eccoci qua, già. Beh, adesso. Facciamo andare a Cicito Montò. Intanto ci vuole. Ma non mi senti così? Ehi, signora. Ma dipende se la modulazione, se io la tappo così oppure se la faccio così. Ciao, non trovo differenza. Ok, va bene. E comunque domani mi vengo al mare. Dal giorno ci stai? No, vado presto. E a mezzogiorno me ne vado, quando sto cominciando a fare col caldo, non ne vado via. Arrivo la casa, mi pongo sotto all'ombra e non mi muovo da in chivi, almeno per non trovare l'aria buona, sennò che... Ciao, bello è anche andare in montagna, ga. Non mi piace. Non ti piace? No. C'è da camminare, boh. vedi che sta camminando, no? Ti fermi lì in un bosco e fai il tuo picchinetto, però butta una vezzina, l'aria pura, fredda, cioè diciamo che montagna se non sei troppo pochettino fresca, acqua buona, e anche è bello fare un picnic così, a me piace. Gianne, mi senti? Ciao, come hai detto te, sulla ruta ti è mancata? Che chiappa? Non mi hai risposto. Prova a indovinare che cos'è questo. Questo qua è il grana. Gappa, se te la riconosci la modulazione. Ti ha parlato di dire incandescente, lo sai. E come è possibile? Chiappa, perché l'ho fatto andare al massimo, l'ho fatto andare, per quello che era molto caldo. In questo periodo è micidiale, in questo periodo queste apparecchiature qua scaldano parecchio. Comunque dai, già li fa bene un po', dai. A farlo andare. Che ci vuole, scaldati, dopo li metti a posto. Chiappa, allora, è una scaldatona, Adesso è appena acceso, ma è freddo, è appena acceso. Chiappa, ma l'altra di era proprio, se ci mettevi l'uovo te lo cucinava, era bollente, era. E ci credo. E perché poi è stato scaldato un bel, ho cercato di quei ventilatori di per raffreddare. Chiappa. E già ci sono vendendo già. Ma comunque io non so, avrei trovato anche una di quelle ventole, tipo di quelle del computer, anche quelle più grandi, io ce l'avrei messo lo stesso. Ma io l'ho visto oggi, ma c'aveva il gambo che si attaccava direttamente alla sede sigari. E a me non mi va bene così, lo voglio per normale. C'era lo spinotto e ci attaccava al cindisigari. Lo spinotto, cosa c'entra? Chi non si può modificare? Beh, se vuoi lì si può modificare, si possono mettere le bananette, si possono mettere i cuscini, come vuoi tu si può fare. Vedi quei ventilatorini piccolini. Gianni, ma dice strumento? No. Chiappa, dimmelo, ti sta addormentando, dimmelo, perché se no chiudiamo qua. Non mi sta addormentando ancora, sta mettendo le cucce anche. Chiappa, beh non me lo potevi dire. Vabbè, mentre stavi parlando ti stavo ascoltando mettendo le cucce, ho detto così come finisce, poi gli rispondevo se non ce lo fa. Chiappa, fallo, non c'è problema. No, l'ho già messa adesso. Ah, l'ha già messa. Quindi ti stavo dicendo già che... Ma oggi ho perso l'ufficio. Che hai preso quello lì, stavi prendendo quel ventilatore con l'accendisigari. Che pegna. Stavo detto che sono ventilatore con l'accendisigari. Tu me l'hai detto. Con l'attacco per l'accendisigari, però era tutto... Allora, non so se mi spiego, il gambo del ventilatore si attaccava direttamente all'accendisigari, capito? Si stava il filo. Ah, praticamente si attaccava così. Cappa, e di solito sono quelli che si usano in macchina. E ce lo voglio col filo perché devo metterlo a raffreddare e il filo che esca fuori va all'alimentatore. Cappa, io si può fare una modifica a Volga. Già ci possono fare le modifiche, solo che te lo fa fare, lo prende già fatto. L'accendi sigari si trova, costa 2 euro, costa. Gli fai una modifica, li metti i corsi, gli attacchi i fili, dai. Gli attacchi i fili un altro bene, e dopo va attaccato e via. Ma il fatto che a tu le serve come appoggio quello lì, se no come faccio a attaccarlo poi? E di solito se era una ventosa, era attaccata la ventosa nel pannello, non si stacca di più, gli metti un po' di sapone, sa che non esci più. E poi a lui facciamo venire avanti. Scappa. Ma comunque se lo trovi anche piccolino a corrente, no? Non fa far raffreddare. Ma un bel caso i sapparecchi. No, no, non ti siamo mai agli ascati. Scappa. Oh, visto cazzo, vabbè che non come caldo, uno così d'ore, si scioglie proprio, perché qua c'è caldo. Magari tu cosa c'è, sei sempre con i climatizzatori accesi pure, vero? Cavagliato. Scappa, e quindi un po' di fresco entra anche. E qua invece la temperatura è quella normale, quindi scalda di un po' di più puro. Ma comunque ancora che c'è freddo, fa un poco, rintendo il metro incandescente. Che? È scaldo. Ho detto, vedete che se lasci, se fai molto importanti sì. Le volte portanti scaldano molto queste. Forse sta prendendo un provino al ginocchio, forse ho preso umidità. Preso umidità? Non lo so, perché ieri notte te l'ho detto, non ci vado a dormire e me ne sono andato col divano, no? Che è fatto in pelle, quindi è bello fresco. Era fresco in effetti, però ho detto cazzo qua come esco l'altro sono crepo di caldo di nuovo. Ho giocato cosa, la maglietta e mi sono messo a luce a cosa, a cielo. Che cappa. Io qua c'ho il tappeto stesso, cazzo morendo la guarda che mi hanno tutti. Io gli ho detto, che sta tirando appena. Qualche ieri notte ha tirato per un po' poi si è bloccato. Ma oggi dopo pranzo non mi ha fregato, sennò io vi dico un davvero, Ho preso, mi ha messo il ventilatore sopra il tavolo, a distanza dove c'ho il divano, mi ci sono bucato e mi arrivava quell'arietta fresca, perché c'è distanza se c'è il divano, cioè arrivava quell'arietta e mi rilassava. Mi ha fatto sudare, dai, più o meno. Io non mi sei più. Veramente l'ho regalata a te. Che cosa? Boh. Ah, sì, bene. No, stavo dicendo a Mara. Cappa. Che ha detto, ma l'hai regalata a me. Che cosa? Insomma, magari. Ho regalatoci quello per la promozione di oggi. Promozione? Sì. Che promozione ha fatto? Oh, l'altro. Davvero? Mi hanno promosso, quindi per la promozione gli hanno regalato i soldi. Quindi ho detto, vai, comprati il gelato e tutta la sera con questi soldi, che deve mettere sabato a maio, che vuole andare alla giostra, gli arrivo a fare un po' di cose con si qui. Contento, perché danno i soldi, danno a scuola. Che l'ha dato mia sorella per comprarsi il gelato. Ah, capito. Cazzo è tutto, cazzo. Allora, andiamo giù d'ora e abbiamo portato un po' di roba, dovevamo portare, e poi mia sorella ce l'ha da giù. Ah, ha fatto contento. L'hai visto? E dalla stati fissato devo andare a giostra, ma ancora ci sono lì a Porto Torres? Ci sono, siamo usciti ma non stavano funzionando. Ah, forse, e hai sentito sfiscare la vero? Questi qui sono piazzati ancora. No, sono ancora montate, vedi? Sì. Ma hai visto se c'è la giostra dei Concorde? Oh già. Sì. Ho visto se c'è la giostra dei Concorde. Ma l'abbiamo vista da fuori, Anto. L'abbiamo vista un po' da fuori, ho visto che ha tutto spento. E tu vedi, Marco, lì non c'è nessuno. cosa andiamo a fare. Non li accettano, solo quello che c'è un numero di gente accessibile non li accetta. Ero che contento questo che hanno andato a giostra. Tanto se l'accettano è tutto spreco, perché vanno di sotto. Adesso ce l'ho ancora qua, ce l'ho a giostra. Pratichi, mi hanno rotto le scatole. Ah, quella è segnata a me. La fisionomia ce l'ho, Ah, chi sei della giostra? Chiappa, la prossima volta parto di brutto, ma faccio veramente male. Ma male davvero, perché ce l'ho segnata, ce l'ho. E quando Antonio segna, sono cavolo. Hai fotografato? Chiappa, ho fotografato tutto. E poi ci ho fatto una curva nel quadrato, visto quella curva che c'è, quella proprio la più brutta, quella che c'è di fronte al bar dove andiamo noi a pigliarci le cose, ho fatto quella curva lì e questo qui proprio in mezzo alla curva c'è uscito dal parcheggio, la sera mi hanno messo il codinato e io mi sono girato e se mi stava dicendo cosa, mi sono confermato con la macchina. E detto, cosa che dice? Mi aveva problemi di mio. Ma non ho fatto niente io, cosa ho fatto? Non ho fatto niente. Come non hai fatto niente? Non te l'ho ridotto perché ti debba il codice, non ti sono, ti chiudi a me. E stai attento, detto, quando esci dal parcheggio. No, ma non ho fatto niente. Alla fine mi ha fatto in casa che oggi quando esci un paese. Gaffa, hai fatto bene. E anche se non ti fai ripetere subito che ti hai fatto il duro. No, lo vedo tu, io non la giudi tutta. Se busta di cosa è, tu capito? È torto marcio, dove è che c'è torto marcio? Stai uscendo da un parcheggio, guarda almeno. Gaffa, ma invece vado invece non hai, non ha mai da nulla. E tu si chiede anche le Mercedes, capito? Che era il padrone del mondo. Beh, sono più fronte già questo. Vabbè, ero con Marcolino che non faceva manco. Ma malato troppo crepo. Gaffa. Lo so. Ora io c'ho. Ma pure a me mi danno fastidio questa gente qua. Gaffa. Questo mamma mia, ma paraggio c'è un rinocchio che ha tutta cosa, cazzo. E questa volta si mi appare e fa male a vero. Bisogna che il prossimo anno non ci vada, perché se mi adduco questa volta per fare veramente male. Lì escono, cioè, a rintervengono anche, la bisogna lasciar perdere, dai. Infatti, noi l'abbiamo detto, non lo sappiamo come no, tutti dicono tutti gli attaccabrighe, tutti i delinquenti, andali. Vai, vai. Sembrava ci sono queste persone. Certo, no, perché se ci vado questa volta, cioè se a me mi rompono le scatole, io non mi controllo più, lo so già. Ma quindi chi non ti può stare. No, lascia perdere. Ovviamente, no, perché io poi quando divento nervoso poi non guardo più niente, solo il ricordo vecchio e poi cioè, faccio male, ma male davvero. È proprio malissimo di. Non te lo sei mai domandato, ma cosa mi seguono sempre. E che dovuta. Andiamo già anche pure con gli aghito, che giù per Maddui, anche se no, è vero, ma Maddui era abbassi e io dall'altro. Certo. Va, perché sono un'altra storia. Gaffa. È così, io già te lo racconto in verticale, dai, che no, che non ho fatto. Mi sono troppo parecchio, mi sono. No, perché quando mi incavolo, cioè, poi quando io ho il rimorso è ancora peggio, divento un cattivo, hai capito? Cioè, la forza mi si esce quattro volte di più la forza che ho, e da poi, cioè, posso far pure anche macchine, quindi bisogna lasciar perdere. Ehi, vabbè, uno si deve anche autocontrollare, però. Autocontrollare? lascia perdere che è l'uomo. Cioè, quando ce l'ho a morte, ce l'ho a morte, non è. È così, Quindi bisogna lasciare perdere certe cose. E le lasciamo perdere. Scappa. Sai cos'è? Più passa il tempo e più. E più divento e più sono nervoso. È così, Sai che non ha di più vicentona? No, ma è gente che magari capita tali per caso. No, andava sempre, già l'ho saputo io poi. Non ti preoccupare che io ho anche certi amici che se io faccio un fischio ti vivi tutti dei casi davvero, Non esce niente che vuole, sono stroncate, qua manco meglio niente. Meglio niente, perché anche mi dispiacerebbe, perché ci metti anche in mezzo una persona che è in alto, cioè magari interveni ghisso, lo fratello di ghisso, hai capito? E quindi no, non voglio far casino. Hai capito quello che ho detto già? Non tanto. Chiappa, non mi hai capito. Negativo. Ho detto che non voglio fare casini perché conosco alcune persone che a chi si ribiglia a casa cioè amici miei che tutti dei casini davvero che si passano il culo, quindi è meglio lasciar perdere. Anima, che se devo dare la buonanotte. E mi sa che mi ricordo mai tanto. Gatta. Vabbè, vai, buonanotte, ci risentiamo, cambio. Ciao, Anto, ci sentiamo, vai. Già, ma sono un po' stanco. Ehi, gatta, dai. E Luca non c'è più, gatta. Non credi, sì. Non ci sta più, dai. Ma buonanotte, già vai, ci risentiamo. Sì, io, c'è buono. Ciao.